giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Compare oggi davanti ai giudici della Corte d'Assise il presunto omicida di Luca Tisi, il senzatetto di 59 anni che fu trovato morto in una galleria di Udine con i segni di 85 coltellate la mattina del 15 aprile del 2023. Dovrà rispondere dell'accusa di omicidio volontario Bruno Macchi, 29 anni, arrestato 4 giorni dopo. Al Tribunale di Gorizia, invece, ultima udienza del processo per la morte di Stefano Borges, il ragazzo di 13 anni che il 22 luglio 2020 cadde in un pozzo del parco Coronini-Kronberg. Accusati di omicidio colposo, tutti i membri del vertice della Fondazione Coronini-Kronberg, fra cui il sindaco Ziberna. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà in regione il 3 luglio prossimo per partecipare alla Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, che sarà chiusa 4 giorni dopo da Papa Francesco. La conferma della presenza a Trieste del capo dello Stato è arrivata dal segretario generale della CEI, Monsignor Batturi. Per Mattarella sarà la seconda visita in meno di 4 mesi. Ore 9, una campanella in una scuola di Pordenone suona 3 volte, è un allarme, scatta una prova di evacuazione. Per 4.000 bambini è un gioco, ma si tratta di un'importante esercitazione di protezione civile. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Daniele Lettige e Antonio Cagliazza. A Udine, prima udienza stamattina del processo per l'omicidio del 59enne Luca Tisi, il senzatetto che fu trovato morto all'alba del 15 aprile 2023 in una galleria della città. Fu rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario il 29enne Bruno Macchi. Prima udienza in un'aula di corte d'assise a Udine semideserta per il processo sull'omicidio di Luca Tisi, senza fissa dimora, ucciso in Galleria Alpi all'alba del 15 aprile 2023 da Bruno Macchi. 85 coltellate, 43 delle quali al capo. Contestati a Macchi, nato in Brasile e adottato da bimbo in Italia, gli abietti e futili motivi, la crudeltà, l'aver agito contro chi non si poteva difendere, oltre che al porto abusivo di un coltello da sub. In aula il reo confesso ha ascoltato con attenzione l'introduzione del caso per i giudici Milocco e Lauteri e i giurati popolari. Rischia l'ergastolo. 36 i testi che verranno chiamati a deporre, 4 le udienze calendarizzate finora, 2 giugno, 2 luglio. Secondo l'accusa sostenuta dalla PM Lucia Terzariol, la vittima è stata scelta a caso. Macchi da tempo avrebbe cercato una vittima per vedere l'effetto che fa uccidere qualcuno. Tisi si sarebbe reso conto dell'aggressione alle 5.09, quasi un'ora prima che la figlia della portinaia lo trovasse in un lago di sangue. Avrebbe cercato di difendersi da terra. La difesa sottolinea come non ci siano testimoni che possano contraddire la versione di Macchi, l'essersi sentito afferrare alla gamba e aver ceduto nella difesa, anche a causa dello stato di alterazione in cui si trovava. Chiesta la perizia psichiatrica, ma è stato sottolineato, non sarà risolutiva. Avvocato Cristian Buttazzoni. Uno dei grandi temi di questo processo sarà l'indagine ovviamente sul passato del Macchi e quindi anche del capire in quale stato d'animo lui si trovasse nel momento in cui ha passato quella serata che poi ha portato all'omicidio. Avvocato Massimiliano Basevi. La mancata presenza di, come solitamente accade, di un pubblico, ma non curioso, di un pubblico interessato, in questo caso proprio non c'è. Ci ha fatto molto piacere la presenza di alcuni amici del nostro assistito che lo stanno aiutando da sempre. Un po' il processo cosiddetto, è triste dirlo, ma della solitudine. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Al Tribunale di Gorizia oggi dovrebbe tenersi l'ultima udienza prima dell'emissione della sentenza per la morte del piccolo Stefano Borges, il ragazzo di 13 anni che il 22 luglio 2020 cadde in un pozzo del parco Coronini-Kronberg. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 4 anni e 3 mesi più altri 3 mesi di arresto per omicidio colposo nei confronti del sindaco del capoluogo Rodolfo Ziberna, in qualità di presidente della Fondazione Coronini-Kronberg. Una richiesta di pena lievemente inferiori per gli altri 5 imputati, tutti membri del curatorio della stessa fondazione. 4 anni più 3 mesi di arresto per omicidio colposo per Marco Menato, Tiziana Gibelli, Raffaella Sgubin, Maurizio Boaro e Bruno Pascoli. Il presidente Mattarella torna a Trieste, sarà in città il 3 luglio per l'apertura della 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, che si svolgerà appunto dal 3 al 7 luglio. Lo ha comunicato il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, il quale ha confermato la partecipazione del capo dello Stato. Il 7 luglio, a conclusione della settimana, a Trieste arriverà Papa Francesco. Tema di quest'anno: al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro. Il capo dello Stato interverrà con un suo discorso. Parliamo adesso delle elezioni europee. Si vota sabato 8 e domenica 9 giugno per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo. E novità di questa tornata, un vero e proprio esperimento per l'Italia. Gli studenti fuori sede potranno votare senza recarsi nei comuni di residenza. Sentiamo come e in quali casi con Antonio Di Bartolomeo, che è con noi qui in studio. È una novità quest'anno quella per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Dunque, per la prima volta potranno i fuori sede votare nel luogo dove effettivamente vivono e non in quello di residenza. L'eccezione è prevista solo per gli studenti e non dunque per i lavoratori. C'è tempo solo fino a dopodomani, 5 maggio, però per poter far valere questo diritto la procedura prevede la compilazione di un modulo da inviare per email al comune di residenza appunto entro domenica, con allegata la copia della carta d'identità, della tessera elettorale e di un certificato di iscrizione all'istituzione scolastica, universitaria e formativa. L'Università di Trieste e Udine e le relative rappresentanze studentesche si sono date da fare per pubblicizzare questa novità, di cui si è saputo solamente nel mese di aprile. Si tratta di una possibilità che gli studenti fuori sede chiedevano da lungo tempo, ma sui numeri effettivi di adesione c'è qualche dubbio, un po' per i tempi stretti, un po' per l'adempimento burocratico. Normalmente gli studenti non portano infatti con sé la tessera elettorale. Se lo studente fuori sede risiede in un comune della circoscrizione nord-est, per quanto riguarda ovviamente il caso del Friuli Venezia Giulia, potrà votare nel comune dove vive. Se invece proviene da altre parti d'Italia e quindi è lì residente, dovrà votare necessariamente nel capoluogo di regione. Quindi, per fare un esempio, uno studente fuori sede del sud Italia o del centro che vive a Udine, quindi che studia anche all'Università di Udine, dovrà votare necessariamente a Trieste, dove sarà allestito un seggio speciale. Il comune sta pensando di ubicarlo nei pressi dell'università o direttamente nell'Ateneo. Da parte del rettore di Trieste, Roberto Di Lenarda, c'è la massima disponibilità a collaborare per questa ipotesi. Grazie ad Antonio Di Bartolomeo. Andiamo avanti col GR. L'esercito italiano compie 163 anni. Anni di guerre e di pace, di enormi sofferenze condivise con l'intera popolazione, ma anche di sostegno e di solidarietà in occasione di calamità naturali, quando i militari in grigio-verde erano gli unici ad entrare in azione perché la protezione civile ancora non esisteva, e quando poi hanno affiancato il sistema di difesa civile nato dopo il terremoto del Friuli. Una storia di missioni all'estero e anche di presenza nelle nostre città, come l'operazione Strade Sicure. Stamattina il generale Franco Del Favero, comandante della Brigata Alpina Iulia, ha partecipato alla nostra trasmissione televisiva Buongiorno Regione. Sentiamo un passaggio dell'intervista. L'esercito italiano celebra i primi 163 anni di vita. Le sue origini però sono un po' più antiche, perché se pensiamo al reggimento guardie che serviva il duca di Savoia, questo reggimento che era il primo reggimento di milizia permanente in Europa, ha come data di nascita quella dell'aprile del 1659, quindi le radici dell'esercito italiano sono molto antiche, radici che sono state mantenute vive nel corso della storia attraverso la partecipazione a conflitti in Europa e in altre parti del mondo, ma anche in interventi a supporto della popolazione civile, dove c'è stato bisogno, con le grandi tragedie che hanno colpito il nostro paese a partire dal terremoto di Messina, per passare dopo la tragedia del Vajont e arrivare fino al 1976 col terremoto del Friuli. Quindi un intervento a 360 gradi a difesa della patria, a supporto della popolazione. L'esercito italiano è un esercito che fa parte dell'Alleanza Atlantica, è assimilabile in termini di dotazioni di mezzi e materiali agli eserciti più avanzati dell'Occidente, dispone di un patrimonio tecnologico all'avanguardia e anche dal punto di vista della formazione del personale, perché tecnologia senza formazione, la tecnologia non funziona. Diciamo che questo connubio, preparazione e tecnologia, ci pongono sicuramente in cima alla lista degli eserciti più avanzati del mondo occidentale. Alle 12.40 siamo al tempo, cielo da nuvoloso a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 14,5 gradi, a Gorizia 15,5, a Pordenone 15, a Udine 13 gradi. A Tolmezzo 11 gradi, a Forni di Sopra 9,5, a Tarvisio 9, a Sappada 7, a Piancavallo 6 gradi. Sul Monte Zoncolan 5,5, sul Monte Lussari 3, sulla costa a Grado e Lignano 15 gradi. Ed ora le previsioni per il fine settimana e atteso un weekend tipicamente primaverile. I dettagli li sentiamo da Marcellino Salvador. Il weekend avremo un tipo di tempo primaverile, nel senso che ci sarà in genere un cielo poco nuvoloso per quanto riguarda la costa e più nubi invece man mano che ci si avvicina alla montagna, specie poi di pomeriggio. Però non avremo le giornate né completamente chiuse con pioggia, come è stato ad esempio giovedì, né il cielo sereno di qualche giorno fa con la fase estiva. Quindi torna la primavera con i suoi canoni più tipici, qualche rovescio in montagna, forse anche in pianura di pomeriggio e sulle zone orientali, ma il tutto rientra in una normale giornata di primavera. Temperature massime intorno ai 23-24 gradi in pianura, quindi risalgono rispetto ai valori attuali che hanno visto di nuovo una diminuzione delle temperature, massime sulla costa intorno ai 20 gradi circa, minime in genere intorno agli 8-10 gradi in pianura, 10-12 per quanto riguarda la costa. Lo zero termico si porta a 3.000 metri, la neve ormai è rilegata a oltre 2.500 metri di quota e legata a qualche rovescio pomeridiano appunto in montagna. Questa situazione andrà avanti grosso modo fino a lunedì. Circa 4.000 bambini e ragazzi dei 4 istituti comprensivi di Pordenone e di 2 scuole paritarie sono stati coinvolti questa mattina in un'esercitazione antisismica. Sentiamo com'è andata alle scuole Gabelli. Sono le 9 in punto quando alla scuola Gabelli di Viale Trieste si sente una campanella insolita, 3 suoni ripetuti per 3 volte. È il segnale di un'emergenza sismica. Pochi istanti e dai vari accessi cominciano a uscire i bambini in fila dietro le maestre. È l'inizio delle prove di evacuazione che a pochi giorni dall'anniversario del terremoto del 1976 hanno coinvolto tutti gli istituti comprensivi di Pordenone e 2 paritarie per un totale di circa 4.000 bambini e ragazzi. Un gioco per loro, ma un importante test per il comune, la protezione civile e gli altri soggetti che scendono in campo nelle emergenze. L'ultimo era stato nel 2018 e aveva visto impegnati anche i vigili del fuoco. Una volta che i bambini sono stati condotti all'esterno e messi in fila, scatta la verifica delle presenze. L'esercitazione finisce con i diplomi alle classi partecipanti. Per un bilancio vero e proprio si dovrà attendere che gli insegnanti e i 38 volontari, tra protezione civile e alpini, abbiano compilato le schede predisposte per segnalare punti di forza e criticità delle operazioni. Ma le prime impressioni sono positive. Fabio Braccini, coordinatore gruppo protezione civile di Pordenone. Sono disciplinati, sono organizzati, però c'è sempre un margine di miglioramento che noi andiamo a cercare e anche con i nostri occhi che sono un po' diversi, abituati un po' alle emergenze, e quindi cerchiamo di dare il nostro contributo per migliorare un po' il sistema e infondere anche in questi ragazzi, in questi bambini, un po' la coscienza di protezione civile, insomma, quello di comportarsi nei modi previsti e di aiutare anche gli altri, semplicemente già aiutando il compagno di banco. Daniela Reina, dirigente scolastica Istituto Comprensivo Pordenone Centro. Insieme all'RSPP, alla protezione civile e all'amministrazione abbiamo osservato i bambini che uscivano, sono stati anche molto ordinati, quindi penso che il risultato sia positivo. Di certo il 22 maggio ci vedremo per fare una tavola rotonda e vedremo un po' se ci sono degli aspetti da migliorare. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Domenica i cristiani ortodossi festeggiano la Pasqua. Oggi la comunità greco-ortodossa di Trieste celebra una messa alle 19.30 nella chiesa di San Nicolò, a cui seguirà alle 21 circa una processione nella zona compresa fra Piazza Tommaseo e il Molo Audace. L'Istituto Bonaldo Stringer di Udine conferma la qualità della propria formazione scolastica portando due suoi studenti sul podio del concorso internazionale Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro Terme nel Bolognese. Per tre giorni, otto istituti italiani del settore alberghiero e altrettanti provenienti da diversi paesi europei si sono confrontati nelle rispettive aree di specializzazione, quali sala, accoglienza turistica ed enogastronomia. Lo Stringer è rientrato in Friuli con il secondo posto di Siria Notar Francesco nel settore caffetteria e il terzo di Davide Zanchetta nel settore cucina. Inizia oggi la nona edizione del Festival Letterario Trieste Book Fest, dedicata quest'anno al rapporto fra l'uomo e l'ambiente, che proseguirà fino a domenica. I primi eventi del cartellone in scena già da questa mattina al Liceo Petrarca. Alle 11 c'è stata la Lectio Magistralis dedicata agli studenti di Bianca Arrighini e Livia Viganò. Nel pomeriggio alle 17.30 al Bar Knulp la presentazione del volume del giornalista e scrittore Marco Niro, Il Predatore, un noir avvincente con al centro la difficile relazione fra l'uomo e gli animali selvatici. Alle 18 alla libreria Lovat l'autore ed esperto forestale Daniele Zovi presenterà il libro Italia Selvatica, che racconta come dopo secoli di declino, caccia indiscriminata, distruzione dell'habitat, oggi gli animali selvatici stanno riprendendo a popolare la penisola. Alle 18.30 ad Hangar Teatro sarà invece inaugurata la mostra Donne di Terre Estreme dell'esperta culturale, scrittrice e fotografa Caterina Borgato, illustrata da Monica Mazzolini. Sul rapporto uomo-ambiente, oggi al Trieste Book Fest sarà ospite anche il presidente della Lega Antivivisezione, Gianluca Felicetti, che alle 20 al Museo Revoltella, dopo l'inaugurazione ufficiale, presenterà il suo libro La politica degli animali. A Udine invece, i giorni che mancano al 7 maggio, avvio ufficiale della 20ª edizione del Festival Vicino Lontano Premio Terzani, sono scanditi da diversi eventi anteprima. Si comincia oggi con l'inaugurazione della mostra di incisioni di Giuseppe Zigaina, La metamorfosi tra inchiostri e anatomie, a cura di Francesca Agostinelli e Gianluca Albicocco, che rientra in un progetto di iniziative per il centenario della nascita del pittore cervignanese. L'esposizione, che sarà visitabile fino al 29 giugno, sarà inaugurata alle 18 nella stamperia d'arte Albicocco. Da giovedì 9 a domenica 19 maggio si terrà la Settimana della Cultura Friulana 2024, in realtà più di 7 giorni di eventi. Si parte dunque il 9 con un classico della letteratura mondiale tradotto in friulano, La fattoria degli animali di George Orwell, in scena a San Giovanni al Natisone. L'intera manifestazione è stata presentata in mattinata a Udine. 200 eventi, 73 comuni coinvolti, oltre 183 tra associazioni, gruppi culturali, cori, musei, scuole. Questi alcuni numeri della Settimana della Cultura Friulana, la rassegna di eventi culturali promossa dalla Società Filologica Friulana, che quest'anno è programmata dal 9 al 19 maggio, giunta alla sua 11ª edizione. Una settimana che torna con numeri sempre più importanti e con proposte di qualità per consolidare la rete di collaborazione tra associazioni e istituzioni di tutto il Friuli, che si sposterà anche fuori regione come Padova e per la prima volta al Salone del Libro di Torino con la presentazione del video e della pubblicazione Ti racconto il Vaillon, realizzati per il 60° anniversario della tragedia e dedicate ai ragazzi per consentire la conoscenza e la memoria. Il presidente della società Federico Vicario. Per fare il punto, per dare voce a tutte le manifestazioni, a tutte le istituzioni, a tutti i ricercatori, cultori di cose friulane. Un momento che riflette sull'identità, sulla cultura, sull'ambiente, sul territorio, sull'arte e sulle tradizioni del nostro Friuli. È un momento fondamentale, è proprio il risultato, diciamo, di questi 200 eventi che proprio rendono la pluralità di tutte le espressioni che la nostra terra può dare. Ricca è l'anteprima con l'inaugurazione nello spazio espositivo di Palazzo Mantica della mostra di Gianfranco Ellero dedicata a Gianni Borghesan dal titolo Fotografia in forma di poesia, un'esposizione che si potrà visitare sino al 7 giugno, tutta dedicata al grande fotografo spilimberghese nel centenario della nascita e del ventennale della sua scomparsa. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Capodoglio, Rapsodia per Federico, è lo spettacolo teatrale dedicato a Federico Tavan, uno dei maggiori poeti friulani del Novecento, che va in scena alle 20.45 all'Auditorium Zanon di Udine. Sul palco, a dare voce al poeta di Andreis, l'attore Massimo Somaglino, anche autore della pièce. Musiche originali di Maurizio Baldin. Caratteristica dello spettacolo, la scrittura musicale per coro e quartetto strumentale. Riparlare dello scultore Ugo Carà, 20 anni dalla morte, e riflettere sul futuro del museo a lui intitolato a Muggia è lo scopo di una mostra che sarà inaugurata alle 17.30 proprio nel museo muggesano e che durerà fino al 9 giugno. Intitolata Il segno dell'artiere, l'esposizione presenta per la prima volta al pubblico in maniera unitaria e coerente tutti gli oltre 100 pezzi della collezione Carà donati dal maestro al comune di Muggia nel 1999. Ne abbiamo parlato col curatore Massimo Premuda. È un grande piacere festeggiare Ugo Carà a 20 anni dalla morte. Carà ha avuto una vita lunghissima, nato a Muggia nel 1908 e morto a Trieste appunto nel 2004. Nella sua vita appunto si è occupato di moltissime discipline diverse, in particolare di design, di decorazione di interni, decorazione navale, pittura, grafica, scultura. E cerchiamo proprio con questa mostra di andare a raccontare questo aspetto così poliedrico della sua personalità, e non a caso si intitola Il segno dell'artiere, che vuole proprio riassumere con questa parola, diciamo, un aspetto da artigiano sensibile e anche artista laborioso. Il museo di Muggia, intitolato Ugo Carà, dove si terrà la mostra, contiene il suo lascito appunto al paese che gli diede la nascita. Quali sono le opere contenute? Quanto è conosciuto il museo? Quanti visitatori vengono a visitarlo? Vogliamo far vedere veramente tutta la collezione Carà, sono oltre 100 pezzi, di cui normalmente teniamo in esposizione un'ottantina. Il sottotitolo della mostra è proprio Un museo per Ugo Carà, perché in questo caso veramente anche lo spazio delle mostre temporanee è dedicato al maestro. Il museo esiste, è stato inaugurato nel 2006, dunque 2 anni dopo la morte di Carà, e appunto realizzato più di 200 occasioni espositive, tantissimi eventi, concerti, presentazioni di cataloghi, visite guidate, e il museo ha un buon riscontro sia sulla popolazione muggesana che sui turisti, e più o meno abbiamo un migliaio di presenze al mese. La promozione di Nova Gorizia Gorizia, capitale europea della cultura 2025, e la presentazione delle attività dello Scriptorium Foro Iuliense di San Daniele del Friuli sono le novità che caratterizzeranno per il 2024 la presenza della regione al Salone del Libro, in programma a Torino dal 9 al 13 maggio, in uno stand che in parte ricalca quello delle ultime edizioni, interamente realizzato in legno. Il Friuli Venezia Giulia dedicherà spazio sia alla cultura del territorio, con quasi 40 appuntamenti in calendario, sia alla promozione delle bellezze paesaggistiche. Ritorna questa notte a San Daniele del Friuli il Cammino delle Chiese, iniziativa rivolta a catechisti e non solo delle parrocchie friulane. Si tratta di un pellegrinaggio notturno che entra in diverse chiese di una particolare località friulana. Punto di partenza questa sera la chiesa del Castello di San Daniele, da dove al termine della messa delle 20.30 partirà una processione che toccherà San Remigio, Villuzza, San Giacomo di Ragogna e Muris, prima della conclusione nel Duomo di San Daniele. L'etichetta discografica Heavy Psych Sounds porta per la prima volta a Trieste una tappa dell'omonimo festival Heavy Psych Sounds Fest. Al Teatro Miela oggi e domani si esibiranno gruppi come i Gongzilla, la leggendaria californiana Nick Oliveri con il suo Mondo Generator, la punta di diamante del movimento doom italiano UFO Mammut. Le esibizioni iniziano alle 18. E domani in TV alle 12.25 andrà in onda la rubrica Il Settimanale. Sentiamo che cosa conterrà la puntata. Torna Il Settimanale. In questa puntata, agriturismi e benessere, trattamenti estetici a chilometro zero tra olio alle olive e creme alle castagne, una tendenza sempre più diffusa. I murales di Aielli, museo a cielo aperto. Andrea D'Amato, famiglia italo-marocchina, su Instagram, e l'arabo calabro, ironia contro i pregiudizi. i suoni visibili, a Milano le installazioni dove l'arte incontra luce e musica, a Dolfo la tradizione centenaria dei tamburi di Cogne, il canoista solitario Marco Musicò, ultima impresa Messina-Trieste, Valeggio sul Mincio il suo nodo d'amore, il tortellino nato da una leggenda, oggi nel settimanale 12:25 Rai 3. Sì, in realtà non oggi, ma domani. Domani alle 12:25 su Rai 3. Dunque questo notiziario termina alle 12:54 minuti e 45 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Caterina Cabrelli e da Tommaso Vinoni, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Daniele Lettige e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.